Sul piano strettamente economico, la controofferta fatta da Air France, se è questa, è una novità, perché è così conveniente per chiunque 138 milioni di euro per prendersi all'Italia, che a questo punto io credo che il governo dovrebbe fermare tutto e riaprire la trattativa, perché a queste condizioni, a quelle poste da Air France, io penso ci siano altro che una cordata, molte cordate italiane pronte o di altri imprenditori pronti a rilevarla. La nostra preoccupazione principale, come è noto, è sulla fine che farà Malpensa. E qui ieri io mi sono sentito veramente preso un po' per i fondelli dal presidente di Air France, che dice: va bene la moratoria su Malpensa, però la moratoria è limitata al cargo e a tre aerei, manterremo tre aerei cargo dal 2008 al 2010. Francamente cornuti e mazziati mi sembra troppo. A Malpensa ci sono tanti vettori, all'Italia è l'unico vettore che Malpensa perde, pur avendo aerei con una percentuale di riempimento superiore all'80%, è l'unico vettore che parte da Malpensa che perde. La SEA ha una lista di vettori pronti a venire, raddoppiando o triplicando i voli che già fanno, che sono pronti a venire a Malpensa da domani.